Barisone e è diventato vicepresidente, no? Crucia, è inutile che lei fa il sabutello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma chi si salverà dai banchieri, dai politici, dal deficit, dalla crisi, dagli alieni, dai maiadasci, l'ipoticità? Alfonso Signorini. Alfonso. Mentre impazza la campagna elettorale e si sentono sempre le stesse cose, le stesse frasi, eccetera, iniziamo questa puntata della Zanzara, caro Parenzo, con il direttore di Chi, Alfonso Signorini. Perché ieri, ospite di Chiambretti, ha detto quello che tutti pensano, cioè che il presidente del Consiglio Renzi e il ministro Boschi forse hanno avuto una storia, amico no. mio. Sì, lo ha detto esplicitamente. Senti, senti. Chi è secondo te il fidanzato giusto per la signora Elena Boschi? Il ministro Boschi? Se non fosse sposato tutta la vita Matteo Renzi. Ah, proprio li vedi insieme? Assolutamente sì. Sì. Anzi, c'è il gossip che sono stati anche insieme. Beh, questo lo dici tu, io prendo le distanze. È gossip. E anche noi prendiamo le distanze. Non vogliamo querele, non vogliamo casini, non vogliamo giudici, non vogliamo tribunali. Già ne abbiamo troppi, amico mio. Questa mattina sono dovuto andare dai carabinieri per il riconoscimento. Che hai lo fatto? Sai perché? No, perché le salme si riconoscono, no, quando c'è un morto. C'è una procedura che è il riconoscimento, cioè ti chiamano i carabinieri. Ma perché che hai combinato? Ma niente, ho dato del pazzo a uno in trasmissione e questo qua mi ha querelato, cioè, capito? Ci dovrebbero essere 10 querele al giorno, ci dovrebbero essere. È come se io ti dico, fatti una penoscopia, come ha detto l'altro giorno il dermatologo di Berlusconi, sì, che tu dovresti farti una penoscopia, e ha ragione. Sempre Signorini dice che Sallusti è il suo uomo, Santanchè è avvertita. Ma è vero che il tuo sogno erotico è Sallusti? Vediamo una foto, vediamo una foto di Sallusti, perché guarda, probabilmente io non lo, ecco, visto così no. No, ma sai perché? Cos'è che ti piace di guarda, lui? Mi piace perché ha una faccia da stronzo pazzesco. Sì. Dai, siamo al top qui, siamo al top. Allora, sulla vicenda Lario, Signorini dice o stai zitta o ti metti a dieta. E in questo ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione. O sta zitta o si mette a dieta. Viva Signorini! Poi innanzitutto, quando sei un personaggio pubblico, e Veronica Lario lo è, perché non è certo una signora nessuno, giusto? È l'ex moglie di Silvio Berlusconi. Lei stessa dice, io ho il diritto di invecchiare, cioè ho il diritto di essere grassa, mi piace essere grassa, quindi. Però dice, pubblicando le foto, chi danneggia la mia dignità di donna? Allora io dico, ti devi decidere. Allora, o grasso ti piace e te ne stai zitta, oppure se non ti piace ti metti a dieta. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la... E poi le parole dei politici, che noia mortale, che c'è? Che c'è da dire? Ah, Renzi, sì, Renzi quando dice mentre loro si insultano noi governiamo, cioè Renzi e cioè Grillo e Berlusconi, uno show da rivedere, quello a porta, ma sentiamo Renzi a RTL che dice mentre loro si insultano noi governiamo. Renzi, sei in campagna elettorale pure tu, vai dappertutto, non fare lo snob, vai dappertutto a dire qualsiasi cosa, dai! In queste ore Grillo e Berlusconi se le stanno dicendo di tutti i colori. E vabbè, io li lascio fare però, intanto perché noi abbiamo da governare, loro possono passare il tempo a insultarsi quanto vogliono, anche perché poi sono tutte e tre di loro, sono due affermati professionisti dello show, per cui sono assolutamente capaci di dirsi di tutto e poi dal giorno dopo di far finta di niente. Vai avanti tu, così ti guardo meglio. c'è Grillo con il processo in rete per politici, banchieri, giornalisti, Grillo sì, il processo via web. Deve chiarirsi con Casaleggio però. Ma su che cosa? Se fanno, se vogliono fare i ministri o no? Ah, sì, quella roba lì. Sì, certo. Sì, perché in un'intervista al Fatto Casaleggio ha detto io e Beppe siamo pronti a fare i ministri, poi c'è stata la smentita. Ma insomma, chi se ne frega, dai, su, cioè, un governo a 5, diciamo la verità, cioè, io magari lo voglio, non lo so, però un governo a 5 stelle in Italia non ci sarà mai. Questa è la realtà dei fatti. Credo tu, Ma non ci sarà mai, secondo me, è inverosimile, dai. Non ci deve essere il governo, non serve. Ma come non serve il governo? È tutto, dai. È tutto connesso, non ha nessun senso. Palazzi Nud, c'è un iPad, un computer. Ma non può governare l'iPad. Ma porca puttana, ma non serve a un cazzo, è tutto collegato. Vabbè, che significa? Ci sono gli interfacce, la gente che si parla, decide. Ho capito, ma ci vuole un tasto e decide. Le infrastrutture. E governa. Ad esempio, come fai tu per riscaldare una casa? Scorreggi. A casa mia è così. Il processo virtuale. Grillo, un attimo solo, però il processo virtuale. Allora vaffanculo. Questo dovrà essere un processo virtuale in rete a scopo di informazione, informare quali sono state le persone che hanno distrutto una potenza economica, una potenza meravigliosa di intelligenza. Il processo in rete nei confronti di giornalisti, banchieri, ma certo, e politici. La Norimberga della rete. Dai, su, lo sputo la digitale. La Norimberga della rete. Lo sputo digitale, senti. È un processo che durerà un anno, due, andremo avanti. Sarà anche un gioco molto divertente, sarà uno sputo digitale. Abbiamo diritto anche a avere un processo. Nel momento. Farò quello che vuoi. Oh, Matteo Salvini è con noi, buonasera. Buonasera, buonasera. Come andiamo? Sempre bene, fratelli. Si fatica, bene. Si fatica, sì. E ho perso 5 kg. Oh, però, ecco, questa è la prima domanda che volevo fare, mi ha anticipato. 5 kg, perché lei era leggermente ingrassato, anzi diamoci del tutto. Sì, Renzi è ingrassato come il maialino della fattoria degli animali di Orwell, io sto perdendo peso perché corro, incontro, ascolto, giro, vado in camper, sì. Risolvo. Beh, però non è che girare per forza, potrebbe come pure un rom. Potrebbe in camper come un rom, va no, Salvini. Che in camper. Adesso, ieri sono stato nella Torino dell'amico Parenzo, nata dalla sinistra da sempre, dove c'è il più grosso e vergognoso campo rom abusivo d'Europa, sul c'è anche lungo il signor Scura, Cotta, che è una vergogna, Piemonte, cielo aperto. Ricordo che c'è anche il signor Cotta c'era, in Piemonte. C'era. Vuol dire, lì è il sindaco che deve far rispettare la legge. È bello che all'ingresso del più grande campo abusivo d'Europa c'è un cartello con scritto divieto di campeggio. Ma perché non va a fare un bel comizio là? Verrà accolto sicuramente con grande favore. Sto pensando di chiudere la campagna elettorale lì, mentre gli altri faranno i fighetti. Ah, nel campo rom? Storici. Nel campo rom? Beh, anche davanti al campo Rom, ci abitano un sacco di torinesi preoccupati e incazzati. Allora, Rom, accogliete con grande dignità, accogliete con grande. No, amici Rom, all'ascolto! Amici Rom, all'ascolto! Che probabilmente chiamate, ascoltate la radio da qualche auto rubata, cari amici Rom! Come direbbero a Radio Padania? Comunque, 5 kg, sarà contenta la moglie per 5 kg in meno, Salvini. Sì, sì, no, ma sono contento anch'io. Solo che il problema è che poi li rimetterò su perché amo la cucina. E quindi... Appena si va a Strasburgo, a voglia birra, a voglia. Quando festeggeremo il trionfo. Attenzione, della attenzione, Lega. Attenzione a dire prima trionfo. Prima hai detto, prima eri sul 4%, adesso se non arrivi al 5, vogliamo fare una scommessa. Scrivi, scrivi un foglietto adesso, scrivi un foglietto. Almeno 6. Come almeno 6? Almeno 6. Se non c'è il 6, che succede? L'aria è buona. L'aria è buona, prenderemo almeno il 6. Almeno il 6%, se pigliamo meno del 6%, Parenzo è una persona intelligente. Beh, questa è una bella scommessa. Cioè, meno del 6%, ospiti Parenzo un'ora a Radio Padania, ti prego. E può dire quello che vuole, va bene, affare fatto. Affare fatto. Meno del un'ora posso dire quello che vuole. Un'ora a Radio Padania. Allora io, accetto la sfida. Io mi porto rom. Aspetta, scusa. Porto un rom. Se, no. L'hai detto. Porto un rom in studio a Radio Padania. Cosa fa? Allora, se la Lega supera il 6, faccio radio. Allora, facciamo l'accordo fatto per bene. Facciamo radio rom per un'ora, No, radio rom, tu vai con un rom, tu fai quello che vuoi, radio rom, un'ora dove il rom può raccontare chi è, la sua vita, come ha fatto. Bene, vabbè, dove ha fatto. Radio Rom. Come rubano il rame? Come rubano il rame? Ecco razzismo. Perché non rubano il rame? Salvini, non rubano il rame. E allora di anche perché ha il dente d'oro. Ma vediamo ieri avanti, lì a Torino c'erano dei laboratori artigianali. separavano i fili, i cavi, gli strumenti, quindi cioè, fanno anche del lavoro, insomma. Sì, vabbè, però insomma, dai, su. Sai, vabbè, comunque, l'accordo è fatto. A parte gli scherzi, io penso che dopo Grillo, che prenderà i suoi voti, la seconda sorpresa elettorale sarà Vabbè, Lega, quello, perché c'è un quello vediamo. Sopra il 6 che succede? Che però l'accordo è questo. Sotto il 6 Parenzo va a Radio Padania per un'ora e può dire quello che vuoi. Sopra il 6 parti a piedi da Viale Monterosa e vieni a Pontida sul Sacro Prato. No, io che c'entro? Parenzo che deve fare? Io non c'entro niente. Parenzo a piedi da Monterosa a Pontida, te lo dico, sopra il 6, Parenzo, al prossimo Pontida. Firma sopra il 6. Come faccio? Se sei così sicuro, firma. Vabbè, un po' in macchina e un po' a piedi. Va bene, un po' in macchina, va bene. Comunque a piedi. E vengo senza scorta, a mani nude, senza scorta, con i miei amici immigrati. Ma noi non siamo mica violenti. Siamo mica violenti con i tuoi amici dei centri sociali o la Fornero. No, gente, amici, per a proposito, oggi qualcuno ha dato del negro di merda a Balotelli. Come lo definiamo questo signore? Ma chiunque l'abbia detto è un cretino. Un cretino, eh? A proposito, ma Matteo, tu farai il tifo per l'Italia ai mondiali? Da quanti milanisti metti in campo? Non essere così diplomatico. Ma io da 16 anni che mi faccio questa domanda, perché il calcio comincia e finisce con Milan? Detto questo, io sono un buon politico perché perdo i voti degli altri tifosi, però la nazionale non mi ha mai entusiasmato per neanche per cui non ti farai Italia questo, non ti farai Italia, ma no vabbè, però dai, meglio su. L'Italia degli di altri chi? Meglio l'Italia di chi? Ti farò l'Italia anche se il cuore me lo scalda il Milan. Vabbè, adesso questa qua è veramente una cosa da campagna elettorale. In un altro momento avresti detto dire? In un altro momento il Ghana, se vuoi, è tipo la Bolivia. No, il Ghana non credo che ti figana, cioè il Ghana non credo che ti figana. La Chieng per chi tifa secondo te? La Chieng secondo me si disinteressa di calcio. Ti fa Ghana, secondo me ti fa Ghana. Tra Ghana e Italia chi ti fa Ghana? Ma la Chieng, poveretta. Vabbè, no. Un commento, un ex sinistro che va in giro regalando banane, sai, quello il livello. Io vabbè, ho preferito banane. Regalarle un libro, poi me l'ha regalata pure Acerba. Com'era sta banana? Acerba? Era Acerba, l'hai mangiata. Però te la sei mangiata, Quando la zanzarita. Allora ragazzi, qui c'è stata la svolta, qui c'è stata la svolta. La svolta è questa. Salvini ha detto che tiferà per l'Italia ai mondiali, cosa mai sentita prima, caro Parenzo. Ogni volta la Lega si vuole espandere in tutta Italia, perché il verbo no euro loro lo vogliono portare. Vabbè, capiscono che appunto, è una questione, ma in questo sono intelligenti, mica. Vabbè, ma giusto, io non sto dicendo escono giusto. Dalla Padania, il Dio Po, tutta quella roba lì, e fanno una campagna diversa. D'accordo. Questo è normale, intelligente. Farà il tifo per l'Italia, e allora pure l'inno ci deve essere in piedi all'inno, poi a un certo punto durante le partite, Salvini. Questo è vero. Oppure quello no, oppure ci si ferma al tifo. Va bene tutto, però non esageriamo. No, gli schiavi di Roma, io sono a Roma e sto scoprendo una città bella nonostante dei sindaci solitamente inetti. Però Marino vuole legalizzare la droga, tra l'altro, vuole legalizzare le droghe leggere. Sì, il signor Marino. Mi sembra proprio la priorità dei romani, e tutti i taxisti e tutti i commercianti con cui parlo mi dicono: ma speriamo che il sindaco legalizzi la droga, perché veramente la prima esigenza di noi romani è la legalizzazione. Ma roba da matti. Ma i sindaci di Roma però li estraggono Rutelli, Veltroni, Alemanno. Vabbè, prendono. Non sono mica tutti insieme, non sono mica tutti uguali. Alcuni hanno fatto bene, no, altri ma male. Sono uno peggio dell'altro. Ma non è vero, dell'altro. A Rutelli, per esempio, ha fatto bene Veltroni. In alcuni momenti. Anche Veltroni. Hanno lasciato un buchino di 10 miliardi di euro. Diciamo che sui bilanci non sono una stati sempre. A chi non capita a casa di lasciare 10 miliardi di euro di buco? Allora, Napolitano protesta contro i populismi. Ma secondo lei, che fine deve fare Napolitano? Si deve dimettere? È giunta l'età. È giunta l'età per godersi quello che ha fatto e raccogliere quello che ha seminato. Io mi sono fatto la maglietta, sono un populista, ve ne manderò una in redazione, perché ormai codesti signori, quando finiscono gli argomenti, sì. Sei un populista. Sì. Bene, sì, io sono un meglio populista che cretino, quindi dico prima il lavoro agli italiani, stop all'immigrazione. Cioè, stai dicendo che Napolitano è un cretino? Meglio meglio no, ma non mi permetterei mai. Per carità, io rispetto l'età. Rispetto cioè è un nonno che deve andare in pensione, diciamo, questa è la realtà. Ma è lucido secondo te? Ma io penso che arrivati a una certa età, per carità, ci sono dei novantenni che sono più svegli di me, punto. Però ma guardiamo Berlusconi, con tutto rispetto per quello che ha fatto, un grande uomo di comunicazione, un grande uomo di impresa, un grande uomo di calcio, secondo me ultimamente comunica poco e male. È andato, anche lui è andato. Si commuove dire molto, che torno con Renzi, ma cioè dare del nazista a Grillo e dell'assassino a Grillo, ma che cosa ce ne c'è? Voglio dire, che dibattito è? Ma voi siete alleati con Berlusconi in un sacco di posti, Matteo, in una marea di posti. A livello locale sì, siete alleati. Perché riusciamo a rispettare dei programmi, ad esempio Regione Lombardia togliamo i ticket sui fari. Però mai più, a livello nazionale mai più con Berlusconi. Che l'unico centrodestra sia rimasto la Lega e oggi io non mi allerei con Berlusconi, assolutamente no. Anche Marchionne dice che protesta contro il populismo, è d'accordo con Napolitano, anche il signor Marchionne. Beh, ma più hanno soldi sul conto corrente più protestano contro i populismi. Vorrei che qualche esodato mi dicesse se è più populista o più marchionniano. Comunque oggi il suo alleato Jean-Marie Le Pen ha detto... Il vecchio Jean-Marie Le Pen. L'alleato è la figlia. Vabbè, è uguale, dai. Non credo che la pensi in maniera diversa. Ha detto che c'è una soluzione per l'immigrazione clandestina, per l'immigrazione l'Ebola. Ha detto una stronzata. Non è molto diverso da quello che dite voi. Monsignor Ebola può risolvere questo in 3 mesi. Monsignor Ebola, il vecchio fascista, questo signor Le Pen, vecchio fascista. Se è una scusante per Napolitano, sarà anche per l'anziano Jean-Marie Le Pen, da cui la figlia ha preso tante doti, ma da cui ha anche parecchie differenze, quindi sono contento di essere alleato con la figlia. Ma è uguale, sempre è uno dei leader del Fronte Nazionale. Augurare la morte a qualcuno è sempre cosa da sciacalli, quindi lasciamo perdere. I problemi dell'immigrazione li risolvo in altra maniera. Non con l'Ebola, non con l'Ebola. Dai, adesso non scherziamo. Altro discorso è negare, come fanno di solito a sinistra, che stiano tornando alcune malattie contagiose come la scabbia e la tubercolosi, che sono nei numeri, che sono dei dati. Ma la scabbia e la tubercolosi, Matteo. Milano e Monza, più 40%, più 80% nell'ultimo anno di scabbia. E d'altronde è così. Cioè la scabbia la morte mi sembra da demenza. La scabbia la portano gli extracomunitari? La scabbia? No, la portano i valtellinesi. È noto da Cuneo e da Sondrio portino in giro la scabbia. Adesso arrivano da un sistema sanitario inesistente, quindi portano malattie da noi sconfitte, e questo è un problema. Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Corriere della Sera, ha lanciato l'allarme poliomielite dalla Siria e dal Pakistan, non c'è da scherzare, bisogna stare assolutamente attenti. Ma messo di fronte a una scelta, tu chi sceglieresti, Grillo o Berlusconi? Grillo. Meglio Zangrillo. Ad oggi sceglierei ancora Berlusconi, sai, perché non mi piacciono quelli che abbandonano la barca quando traballa, quindi i bondi, i buonaiuti, i Previti, la gente che con Berlusconi ci ha fatto fortuna e adesso fanno i fenomeni, vanno altrove e tradiscono. Se io i traditori li disprezzo. E quindi sto con i più deboli, e quindi oggi starei con Berlusconi. Ma Berlusconi, che c'è? Governo, Pagani, libera, via. Ma che c'entra Bossi adesso? Non ha parlato in questa campagna elettorale. Non ha parlato Bossi in questa campagna elettorale. Parenzo, preparati a venire a Pontida a piedi, che la Lega fa il botto. Matteo, non può dirlo, Matteo, perché è bravo. È meglio che Bossi non abbia parlato in questa campagna elettorale? Bossi è sempre più avanti di Parenzo. Ciao. Ho detto, grosse fuzze su schwierige zum Vogel. È difficile fotterlo. Abbiamo un'apparecchiatura con la quale gli posso fare a Parenzo una penoscopia. Vediamo se ci sono delle lesioni sospette. Nel mio spazio sotto il salice. Hai capito, Parenzo? Beh, gentile. È pronta la penoscopia per Parenzo, una cosa agghiacciante. Cruciani, ma lei vuole fare qualche punturina lei? Io la faccio io. Se vuole tirarsi un pochino, aggiustarsi uno zigomo, le posso fare anche un po' di botulino se vuole. Con questa voce calabrese, no? Molto calabrese, il dottor Mercuri vuole fare una penoscopia a Parenzo e vuole mettere a me un po' di botulino. Intanto c'è una clamorosa rivelazione dell'ex segretario di Scajola. Ma la facesse a Dudu la penoscopia, ma che discorsi sono? Allora, l'ex segretario di Scajola che dice: spero che esca tutta la verità sul caso Biagi. Come sapete, oggi sono uscite fuori delle notizie clamorose su questa vicenda, perché sono stati trovati dei documenti che proverebbero in sostanza che Scajola sapeva dei pericoli che poteva correre Biagi, però sono tutte cose ovviamente da dimostrare. Sì, poi così ex post veramente. E vabbè, intanto il senatore D'Ascola, NCD, ha rinunciato a dire. Senatore Daspo? D'Ascola. Ha rinunciato alla difesa di Scajola. Vabbè, a noi, in fin dei conti, a noi che cosa ce ne frega? Nulla, zero. Di Battista, 5 Stelle, dice che la mafia in Parlamento, Civati che si è incazzato come una belva, la mafia in Parlamento che scendono a compromessi, cose da pazzi, dice la Di Battista. Perché quando vedi la mafia in Parlamento e non alzi il tono, evidentemente sei tu nell'errore. Cos'è la mafia in Parlamento? La mafia si è trasformata, la mafia è il compromesso, la mafia è Civati che è costretto a restare in un partito che non gli piace perché ha pagato 35.000 euro in campagna elettorale, li ha dati al partito e quindi è costretto a fare compromesso. La mafia è Cuperlo che ha delle buone idee, che cita Berlinguer in Parlamento, ma per restare su quello scranno accetta delle porcate che gli presenta il partito. Adesso la mafia in Parlamento, Di Battista dice la mafia, Cuperlo e Civati. Ma come si permette? Solo perché ha l'immunità. Ha detto, diciamo, rinuncia la mafia. La mafia no. In senso lato, ha detto. Ma in senso lato. Sì, non è che voleva dire la mafia vera e propria. Dai. Ah, voleva dire un'altra mafia. Sì, dai, rinunci dire un'altra all'immunità cosa. All'amico pentastellato. Rinunci all'immunità. No, ma la cosa la stronzata è una. Se no è gentaglia. Se no è gentaglia, e lo ripeto, rinuncia all'immunità e si assuma la responsabilità. Ma no, ma io intendevo un'altra cosa. Ha detto la mafia. No, ma è un'altra cosa. Di Battista, mi sento fermamente in grado di governare. A Di Battì, manco il condominio. Ci abbiamo messo del tempo ad imparare, è stato complesso. 150 parlamentari che entrano in quei palazzi e non sanno nulla di quei palazzi. Non avevamo mai scritto una legge, non avevamo mai studiato un decreto. Abbiamo imparato in 2 mesi. E oggi io mi sento fermamente in grado, io con i miei colleghi, di poter governare questo paese, ma fermamente in grado. So come spiegarle. Mi sono anche stancato di stare all'opposizione perché ho visto quello che possiamo, che potremmo fare come forza di governo. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi, il voto europeo non avrà influenza sul governo. L'Europa non ha bisogno di pagliacci e l'Italia merita di più degli insulti. Nuova minaccia di Beppe Grillo. Dopo le elezioni annuncia tribunali popolari via internet per giudicare giornalisti, imprenditori e politici. Il presidente Napolitano, all'Italia servono serenità e fiducia, non bisogna farsi impressionare dal confronto e dai toni accesi. Tensione sui mercati in vista delle elezioni europee, lo spread sale fino a 200 punti, poi frena e torna sotto quota 180. I documenti di Scajola fanno riaprire il caso Biagi, l'ex ministro sarebbe stato avvertito dei rischi prima della revoca della scorta al giuslavorista. Salvare tanti bambini ripaga di ogni sforzo. Al TG3 il comandante della nave della Marina che ha raccolto in mare 130 piccoli profughi. E in Nigeria ondata di attentati di Boko Haram, una strage al mercato di Jos. In 2 giorni oltre 150 le vittime. Le zanzare di casa. Pronto? Si nutrono di me. Sì. Pronto? Sì. E il conduttore? Eh sì, sono conduttore. Si svegliano fino a prova contraria, Pronto? Sì. E il conduttore? Certo, sono il conduttore. La cruda verità. Scrive un signore di cui non faccio il nome perché non voglio beccare querele. L'altra sera sono salito in macchina con mia figlia di 22 anni, ho acceso la radio, purtroppo sintonizzata sul vostro programma, e sono stato costretto a sentire che parlavate disinvoltamente di Pompino in realtà. Ma non ne parlavamo noi, però non ne parlavamo noi. Ne parlava qualcun altro. Un ascoltatore intervenuto. Mi sono sentito in imbarazzo, ho spento subito. La figlia 22 anni, notare, figlia 22 anni. Non credo però che la cosa possa finire così. Dovete tener conto che nelle ore in cui siete in onda possono crearsi queste situazioni spiacevoli che vanno evitate. Vi invito pertanto a moderare il vostro linguaggio, altrimenti vi porto in tribunale. Tu ti rendi conto che tasso pressappochismo non c'entra niente di... C'è gente bigotta. La figlia 22 anni, amico mio. Non dico niente. Ma che messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? Che messaggio posso dare, Parezzo? Che messaggio? Ma tu non vuoi dare nessun messaggio, questo è il fatto. Nessuno. Prima di chiudere volevo però esprimere il mio stupore per come tutto questo possa essere tollerato dai vostri responsabili. Il mio stupore. Vabbè, io le voglio bene lo stesso, però le voglio bene lo stesso. Alfonso Signorini, ho baciato sulla bocca Dudu. Alfonso Signorini, ho baciato in bocca Dudu. Tu hai baciato sulla bocca Dudu? Sì. No, veramente. Te l'ho detto che. Scusa, te l'ho detto io che è gay. Certo che l'ho baciato sulla bocca. Ecco, senti invece. La verità, forse un giorno. Francesco, provincia di Catanzaro. Sì, buonasera. Dimmi. Io volevo intervenire per quanto riguarda Parenzo, che difende sempre quando uno parla degli extracomunitari. Subito razzisti. Cioè, io non riesco a capire se lui vive quei salotti belli, buoni, dove mangia e beve, non sa che cosa c'è in giro. No, niente, non sa niente. Parenzo, lo sai cosa c'è in giro, lo sai? Certo che lo so, caro lo amico. Sai cosa c'è in Salvo. Giro, lo sai, che pisciano, cacano in mezzo alle strade, fanno quello che vogliono. Ma dove vivi? Ma dove vedi queste scene, Salvo? Salvati il cervello, Salvo! Salvati il cervello finché sei in tempo. Persone comuniste di sinistra come te che hanno rovinato il mondo e l'Europa. Il mondo, certo, il anche la luna. 130 metri quadrati ci possono stare 100 persone. L'Italia non è che è grandissima quanto l'Africa. Non è che noi possiamo avere tutte queste persone. Ma dove li vedi? Salvo, dove li vedi questi che fanno la pipì e la pupù? Ma dove li vedi questi in giro che fanno pipì e pupù? Però con il culo in mezzo alla strada nessuno c'è. Salvo, dove li vedi quelli che fanno pipì e pupù? Salvo mio! Stanno nelle stazioni. Dalle parti tue c'è un altro problema. Perché le persone se le prende per 20 euro al giorno. Salvo mio, mi vuoi rispondere? Ma non è colpa loro, dove li vedi quelli che fanno pepì e popò in mezzo alla strada? Salvo! Ma guarda un po'. Allora se in Italia vengono 10 milioni di africani, 10 milioni di africani ci dobbiamo prendere. Amico mio, che dici? Dove li vedi quelli che fanno pepì e popò? Francesco, stai calmo che non si sente niente. Ma questo non si sente niente. Salvo da Palermo. Salvo da Palermo. Dimmi, Salvo, dimmi. Allora, intanto un piccolo commento su quello che ho sentito su Scaiola. A parte che stavi parlando in siciliano e questo era di Catanzaro, ti dico solo questo, Parenzo. Ah, se non sai fare. Io sono di Palermo. No, mi ma quello di Catanzaro. Siciliano, però. Mi sembrava e poi voglio dire un'altra cosa. Il signore di prima, quello che ha mandato la mail sulla ragazza di 22 anni, secondo me quella di 22 anni ha riacceso subito la radio. Dopo, cioè, il padre ha spento quella dove è scesa dalla macchina, è andata lì e ha riacceso. Come no, voglia. Salvo da Palermo, dai. Allora, ascolta. No, intanto volevo dire solamente una piccola. Cioè, la vostra trasmissione è la trasmissione che rappresenta in toto e in pieno la politica italiana di questo paese. Vabbè, perché? E fai bene a fare questa trasmissione, caro Parenzo, perché questi politici meritano questo tipo di approccio. Vabbè. Primo, secondo? Poi, bene. Secondo, no, sul discorso l'altro ieri con di Parenzo che parlava di extracomunitari, gli dai 550 centesimi e va bene tutto. Ma il problema è che con questa campagna elettorale nessuno parla di politica europea. Ma chi se ne frega? No, ha ragione su questo. Gli immigrati dove cazzo li metti che non abbiamo più spazio? Sull'immigrazione dici tu, a parte che certo, sono cruciani. Perché, scusami, parlare di Europa, i signori che si stanno candidando alle europee dovrebbero parlare di questi argomenti, che sono argomenti che toccano i cittadini europei, le nostre cose. Comunque l'Europa dice che in realtà ci dà un po' di soldi per l'immigrazione, noi forse li impieghiamo male. Bravo, forse li impieghiamo male. Un attimo, fermi tutti. Ci guadagnano pure 40 fermi euro al tutti, giorno. Fermi tutti. Buonasera, senta, io vorrei accomunare lei e Riccardo da Roma in un unico grande vaffanculo. Gli do un consiglio, telefoni meno a Zanzara e scopi un po' di più. Allora, c'è Berlusconi ancora su Hitler, che dice Grillo è come Hitler, vuole distruggere la democrazia, eccetera eccetera, parla come Hitler nella campagna del 33, dunque non ci sono solamente i libri che ha scritto Hitler nel 32, i discorsi di Hitler nel 32, adesso è passata alla campagna del 33. Ma è vero che Grillo vuole disarticolare questa democrazia? Dai, su, certo. Non dire cazzate, pure tu dai ragione a Berlusconi. Da calmo, non ho detto che è come Hitler, ma chi Parenzo ha un'idea dice che Berlusconi ha ragione. No, stai dicendo Hitler. No, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che è vero che ha un'idea della democrazia che è tutta sua, cioè tutta sulla rete, dove non ci sono organi di controllo, dove c'è il cittadino può dire qualunque follia attraverso internet, e questo disarticola la democrazia, questo lo dice lui stesso però, Le zanzare. Grillo, anzi Berlusconi su Hitler. In questi ultimi giorni, avendo sentito discorsi di Grillo, sono andato a rivedermi i discorsi della campagna elettorale di Hitler 1932-33. Li ho letti e mi è venuta un'idea. Ho tolto le contestualità, ho fatto ribattere il tutto e sopra c'ho scritto Beppe Grillo a Lucca, Palermo, eccetera. Li ho distribuiti, nessuno dei miei collaboratori o amici a cui ho dato questi discorsi da leggere ha avuto il dubbio che non fossero del signor Grillo. E poi ancora, Hitler diceva di distruggere i nemici, cioè gli ebrei. Grillo dice la stessa cosa. Diceva in particolare una cosa precisa che dice Grillo. Lui diceva: noi siamo in crisi, noi tedeschi, perché dentro di noi ci sono dei nemici, era la comunità ebraica. Sì. Dobbiamo individuarli ed eliminarli e dopo potremo costruire un paese giusto per i giusti. Grillo dice esattamente la stessa cosa. E nessuno t'ha sbagliato. Dice: dobbiamo distruggere il Parlamento, il Senato, i senatori, i partiti. Anche con la dinamite. È vero? Ma no, dai, su, non dire stupidaggini. Ha questo tono apocalittico palingenetico quasi, no? Parla come mangia. Comunque, lo sai chi ha parlato anche di Hitler oggi? Il principe Carlo, che ha paragonato Putin a Hitler. Cioè tutti quanti col paragone. Bravo, con Hitler. Si sta comportando esattamente come lui in Ucraina. Dai, su. Massimiliano da Roma, buonasera. Buonasera, Gruciani. Dica. E devo farle un rimprovero molto serio a lei. Voglio fare un annuncio, un attimo Massimiliano, voglio fare un annuncio. Abbiamo ricevuto una la solita cassetta che riceviamo. Cioè, la cassetta, sai le cassette, quelle. Sì, intanto riceviamo dei nastri. Grande annuncio dalla Zabbia. Abbiamo ricevuto dei nastri in cui c'è un'altra telefonata, come al solito, una solita telefonata. Noi non vorremmo ricevere di telefonate, però purtroppo riceviamo le telefonate con dei nastri. Che dobbiamo fare? E però, per grande trasparenza, grande democrazia, eccetera, mandiamo in onda. La telefonata è del Papa. No. Aspettate le 20:15 e sentirete. Alle 20:15 abbiamo ricevuto. Io ho riconosciuto solo la voce del Papa, Vabbè, Massimiliano, dica, 20:15, il Papa telefona a puntini puntini. Clamorante. Massimiliano. Eccomi, Gruciani, devo farle un rimprovero molto serio a lei. Che è successo? Mi hanno segnalato, perché io non l'avevo sentito quel giorno, io ascolto sempre Radio 24, però mi è stato segnalato che quel giorno c'era in trasmissione Riccardo da Roma, quello che lei lo fa un mito. Beh, lo faccio un mito, l'hanno fatto Alessandro. Molti ascoltatori, eccetera, l'hanno trasformato in un mito. Allora, per me è un guardi, non voglio dire, non riesco a trovare manco un che cos'è? Aggettivo. Che cos'è? Guardi come si arrivò, come si è espresso a una signora di 90 anni. Bravo. Annarella, vengono i brividi. Bravo Massimiliano, Gruciani, bravo. Giuro che mi vengono i brividi. Bravissimo. Sì, perché potrebbe essere nonna vuol dire seconda bravo. Mamma. Ma non c'è bisogno di difenderla così, si difende meglio da sola. Vergogna. Cruciani, un attimino per cortesia, un attimino. Ha detto delle parole, i brividi. Ci stiamo rendendo conto, Cruciani. La guarda, responsabilità. Aspetti che ho ripreso le cose, Massimiliano, vogliamo risentirle un attimo, risentiamo che cosa ha detto Riccardo da Roma. Mamma. Quella vecchia babbiona, ma che ha detto prima, che è andata in pensione nel 75? Cioè siamo nel 2014, sono 40 anni che sta in pensione. quanti anni c'hai? Quanti anni c'ha? Quella che ha detto una volta che c'aveva 68 anni, 69 anni, sono 40 anni che sta in pensione, ma chi li fotte i soldi agli italiani? Te o Berlusconi? Babbiona! Non me moleste moschifo. Ma ce n'è un altro su Andarella, no? Questo ha detto, dai, su. Questo. No, dai. ha detto delle parole quando Andarella gli ha detto. Mi perdoni, Cruciani. Ma scusi, Andarella, lei che legami ha con Andarella? Lei non si preoccupi, quello io non ma ho è nessun parente legame di Andarella, lei. Io non ho nessun legame, io dico che deve imparare, scusi, l'educazione. Però adesso, beh, ha ragione, grande però, scusa. Trasparenza qui, Massimiliano, a me mi segnalano qui perché ogni tanto lei mi però mi ha fatto ascoltare quello che non ho Massimiliano, che mi pare a lei, qui mi hanno segnalato, è parente di Andarella, lei è parente di Andarella? Io non sono parente di Andarella, io prendo le parti di Andarella per le perché deve portare rispetto, perché vabbè, è un ragazzo, lui parla di rispetto, parla di cose, la pensione, quando lui avrà 90 anni, se un ragazzo gli dice vallo a prendere nel culo. Ma non l'ha detto questo, adesso sì, bravissimo. Sì. Vabbè, Cruciani. Le recupero le cose, le recupero. Ciao Massimiliano, grazie. Ciao. No, un attimino, Cruciani. Che vuoi, dimmi, Massimiliano. Un attimino, dimmi. Un'altra cosa. Parenzo, la prego, io mi affido, sì, a lei. Questo è avvenuto. No, è dura, Massimiliano. No, Massimiliano. No, Massimiliano, fidati, è dura alle volte. La prostituzione è l'ultima spiaggia, come dice Parenzo. Ma che vuol dire no alla prostituzione? Bravo, bravo. No, perché tu hai difeso quelle ragazze. No, alla prostituzione. Ma che vuol dire no alla prostituzione? Io voglio la legalizzazione, no? No, ha detto un'altra cosa. No, no. No alla legalizzazione, no alla, non dobbiamo incitare la prostituzione. Ma chi perché incita? Una donna che ma tu, ci sarà, ma quando mai? Tu l'hai strada, fatto. Prostituirsi è l'ultima spiaggia. Ma ci sarà sempre la prostituzione, ma amico mio. Ma questo certo, ma lui si indigna giustamente per quella perché volta cosa? Che tu hai fatto l'elogio di quella ragazza che guadagnando 800 certo euro che ho fatto al mese l'elogio. Ha deciso. Sì, sei contenta? E allora sei vergognati, contenta? Ma non era contenta, c'era un fondo di disperazione del fatto che non ha trovato altro mai. E allora ha detto vendo il mio corpo, non è una scelta. Ma quale disperazione, dire, ma certo, finita di pensare questo, io poi sono per la legalizzazione, ma quali sempre le solite cose, è una questione di dignità, ma se uno dignità? non trova altro da fare perché non c'è alternativa. Dici sempre parole vuote, vuotissime, ma non è così, vuotissime. Ma che vuoi, uno guadagna tu 800 euro al mese e poi vai sulla salaria a un certo ma punto, guadagna, vai buffone, sulla salaria, buffone, guadagna per un mese 800 buffone, euro e poi vai sulla salaria, buffone, manco i camionisti si fermano poi, manco i camionisti per te buffone, si fermano, buffone, manco i camionisti ipocrita. Te vogliono. Ipocrita. Manco i camionisti. Ipocrita. Vivi per 800 euro. Ipocrita. Vivi con 800 euro al mese. Vediamo. È la zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Annarella? Oh. C'è uno che se la piglia con te. Riccardo. Arica. No signora, nel culo lo prende lei e tutta la sua famiglia. No, capito? No, Riccardo. Signora, nel culo lo può prendere lei tranquillamente. Riccardo, tanto da come parla sarà già abituata. Beh, aveva iniziato Annarella però, che a dire la verità. Persona, aveva iniziato Annarella. Che persona brutta che è proprio. Ma perché brutta? È una persona brutta? E tu hai fatto anche l'appello, sei ispirato, certo. Sei il Raffaello della radio. Sei ispirato per dire quelle volgarità, quest'uomo che dovrebbe lavorare nei Vespasiani, quello dovrebbe fare, Riccardo da Roma, ma dai. Ha attaccato una signora anziana, poverina. Ma con una violenza inaudita. Oggi se la sono presa col sindaco 5 Stelle di Pomezia, perché esatto. Ha deciso giustamente, seguendo l'esempio e seguendo soprattutto il consiglio dei genitori, di fare due menù, uno con la merendina e l'altro senza merendina, uno col dolce e l'altro senza dolce. Ma che porcheria che sono stati i genitori a volerlo risparmiare. Momento, ci devono essere degli standard, non c'è nulla da risparmiare. Ma chi l'ha detto? Ma c'è l'accordo, c'è l'accordo dei genitori, è una boiata. Non c'entra i nulla. I genitori si sono messi d'accordo. No, il principio è molto semplice. Almeno nella scuola pubblica tutti devono essere pari e uguali. Ma non quindi dire stronzate, dire stronzate. Il menù deve essere uguale per tutti i bambini. I genitori non volevano il dolce, alcuni genitori volevano risparmiare allora e non volevano il dolce. Bene, siccome però il costo deve essere uguale per tutti. Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Ma che sei comunista? No, scusami, chi guadagna di più dovrebbe pagare di più. Ma non dire stupidaggini. Su questo questo non c'è ombra di dubbio. Chi paga? Chi? Tu non è possibile che ad esempio paghi la stessa retta nella scuola pubblica, infatti non la pago, tu che guadagni tantissimi soldi. Non la pago. E allora viene giusto che, rispetto al figlio di un operaio. Ma se io non voglio che mio figlio, se voglio risparmiare e non voglio che mio figlio mangi il dolce che mi dà la scuola, potrò mettermi d'accordo con il preside? No, perché se no è anarchia, ognuno fa quello che gli pare, mentre devono essere garantite. Chi non mangia il glutine, ad esempio, deve essere garantito, deve avere il suo menù, perché non può mangiare il glutine, le allergie, questo viene fatto. Il menù deve essere poi uguale. Hanno per fatto tutti. Benissimo. Arrivederci. Zanza la zanza, adesso più non ronza. La stronza che danza. Oh, a tre giorni delle elezioni siamo con Daniela Santanchè, Forza Italia. Buonasera. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Come stai, Parenzo? Omaggia Parenzo. Buonasera, omaggia. Danielina. Parenzo, ciao Danielina. Parenzo, come stai? In forma? Ciao cara. Abbastanza bene, sì. Abbastanza bene, sì. Vengo sottoposto a penoscopia dal vostro medico lì, come si chiama lì, il vostro il medico, il dermatologo di Berlusconi, che vuole fargli una visita. L'hanno appena visto ai giardinetti con il suo bambino, la carrozzina. No, quello era stamattina. Stamattina ma non so chi eri ai giardinetti? Non so. Era ai giardinetti che faceva il mammo. Chi eri ai giardinetti? Che vuole fare tutto il giorno. Ecco perché. A me non me l'ha detto. Io stamattina gli ho chiesto: che cosa hai fatto tutta la mattinata? Beh, no, sono andata a controllare il nuovo, la nuova scuola. Stavi ai giardinetti invece di lavorare. Ai giardinetti. Mi sono svegliato. Se volete saperlo, visto che mi rompete i coglioni, mi sono svegliato alle 7. Ho dato il latte a mio figlio. Sì, poi il latte tu hai alle 9. Col biberon. Ma sai quella cosa che si chiama. Aspetta. Poi sono uscito. Poi a un certo punto sono uscito. Sì. Ma verso le 11:30 sei uscito, poi sei uscito 11:30 mezzogiorno. Sono andato. Pensi che mi sembrava uno appena svegliato. Ma forse sarà stato ieri, però. Vabbè, allora. Perché oggi sono andato a vedere poi l'asilo dove dovrebbe andare da settembre mio figlio. E poi sono stato fino a 12:30 l'una a passeggio col bambino. Ma scusa, non ho capito, ma tu la mattina non fai un cazzo? Non lavori? Cioè, non produci? Non c'è molto da preparare. Non produci nulla. No. Cioè, non vai con la carrozzina in giro mentre alle la gente ti cerca. Sì. Con la carrozzina in giro. Sì. Ma dov'è la tua compagna? Ma qui dov'è? C'è. Ma dov'è? Qui c'è. Vado. Ma qui mi pare che. Non ha capito del menu. Chi scende in questi bassi fondi di Radio 24? Sposato come fidanzato con una donna ricca, ma che lavora molto, ma lui che c'entra? Può io, ma io lavoro, ma io mi occupo di mio figlio, ma non c'entra niente la mia vita privata. Posso occuparmi di mio figlio? È stupendo. Infatti lei hai l'appoggio. Posso ogni tanto occuparmi di mio figlio o no? No, tra l'altro ha aggiunto non c'è molto da preparare. È meraviglioso, Parenzo, perché avere la mamma che lavora e che i soldi, il papà che fa il mamma e il casalingo, io anche lavoro. La vera parità. Ma come gestisco io il mio tempo? Saranno fattacci miei. Beh, insomma, non sono solo fattacci tuoi, perché qua dal vetro, non è che qua c'è dal molto vetro, da qua preparare vetro. C'è il Massimo, che è quell'intellettuale di Riccardo da Roma, che David chiama, cosa c'è da preparare? Ma no, fermi tutti. Davide, era Mughini che ti chiamava. Allora, onorevole Santanchè, che succede se Forza Italia prende meno? È onorevole, perché che cos'è? La vuoi insultare semplicemente perché ha introdotto il tema che eri ai giardinetti? Perché ha scoperto. Io, a differenza di Berlusconi, vado ai giardinetti e non ho condanne definitive. Questo è buono, questo è buono. Non ho condanne definitive e vado ai giardinetti. Questa è buona, d'accordo? Deve dire se la sua è una scelta libera o imposta, perché mi sa che lei prende molti ordini, Parenzo. Esatto, brava. Questo è interessante. Bravissimo. Io voglio abbracciare perché io voglio abbracciare. Tutte oggi mi ha rivelato volontarie. Due cose. Voglio abbracciare Daniela Santanchè. Mi ha rivelato due cose. Una, che mi ha detto una stronzata stamattina, che quando l'ho chiamato, Parenzo, gli ho detto: che hai fatto stamattina? E mi ha detto delle stronzate inenarrabili. Non è vero, no, poi sono andato a Matrix. Aspetta. A incontrare il signor Bracchino alle ore 13. Per organizzare la mia trasferta a Parigi di domenica e lunedì. Ce ne freghiamo. Ho incontrato totalmente il signor Bracchino a Matrix. Vabbè, ma non mi interessa. Ho fatto la riunione di redazione. Io sono la bocca della verità. Lei creda a me, perché io stamattina la scenetta di Parenzo, che mi pareva appena svegliato, un po' arruffato. E in che zona non particolarmente felice. E in che zona? Zitto, vai, sarei stato ai giardinetti in che con zona? La carrozzina, gli ho detto: ma è fantastico. Ma e lei che ci faceva ai giardinetti? Accompagnava Berlusconi? Che ci faceva lei ai giardinetti? Passava in macchina. Con la scorta. Passava in macchina con la scorta. Io le faccio una foto. Poi, siccome sono una persona. E in quale zona sarebbe? Ma vuoi stare zitto un attimo? Ma no, perché oggi non era in quella zona. Ma non è la mia zona quella dove era lei stamattina. Comunque, vabbè, ha rivelato una cosa. L'altra cosa è che non comanda lui. Questo ha detto ma prima Santa Che, perché è meraviglioso per Daniela Santa Che questa cosa qui. Comunque, la rivelazione è questa qua. Io non comando. Ma non è vero. Ma se Forza Italia prende meno del 20%, che succede? Bisogna ricambiare tutto di nuovo? No. Come guardi, no? Noi andremo meglio di quanti gufi oggi dicono. Vabbè, quello io però. Sono assolutamente confidente, perché siccome questa è veramente una battaglia di libertà e democrazia, vabbè, nella dai. Vita non sono tutti Parenzo che amano essere comandati a bacchetta, ma molti sono uomini liberi e quindi voteranno per Forza Italia. Vabbè, questo adesso non siamo a fare gli spot elettorali qui. La cosa no, altrimenti non va bene. Me l'ha chiesto lei. No, ho capito, io ho chiesto un'altra cosa. Se Forza Italia dovesse prendere meno del 20%, significa che molte scelte di Berlusconi sono state sbagliate, diciamo la verità. Questo Toti, per esempio, è un leader oppure no? Mi dica la verità. Guardi, lei deve fare dei conti, perché la matematica non inganna. Noi le scorse politiche abbiamo preso il 21.8. Poi c'è stato il alle politiche avete alle preso? Alle politiche abbiamo preso il 21.8, sì. Sì, alle elezioni politiche sì. Dove eravamo il popolo della libertà, eravamo ancora insieme i traditori, giusto? Alfano, se oggi noi prendiamo il 20%, è un successo incredibile, perché vuol dire che pazzesco, i traditori hanno veramente un peso più alto. Cioè il 20% pazzesco. Un successo pazzesco, dice lei. Pazzesco, sì. Assolutamente, perché è meno una disfatta. Ma no, guardi, nella vita si può cadere. Cioè, qual è la disfatta? Mi dica qual è la cosa. Il 15%, ma non c'è una disfatta. Il 15% è una disfatta, ma diciamo. Non c'è una disfatta. Beh, insomma, certo, se prendessimo il 15%, anche il 18% è una disfatta. Da dire che, voglio dire, non è una cosa che ci può far piacere. No, è una disfatta. Vabbè, ma lasciamo perdere le previsioni elettorali. Io voglio chiedere una cosa che mi ronza così in testa. A parte che le voglio fare sentire quello che ha detto Signorini sul suo compagno Sallusti, e dopo glielo farò ascoltare. Ha saputo già? Ha sentito? No, non ho saputo niente. Adesso glielo faccio ascoltare, un attimo. Sì. Ma è vero che il tuo sogno erotico è Sallusti? Vediamo una foto, vediamo una foto di Sallusti, perché guarda, probabilmente io non lo... Ecco, visto così, no. No, ma sai perché? Cos'è che ti piace di lui? Guarda, mi piace perché ha una faccia da stronzo pazzesco. Sì. Qui entriamo in un ambito un po' così. Allora, il mito è così, il sogno erotico del signor Signorini è signor Sallusti. È contenta di questa cosa, signor Santa Che? Molto, perché io trovo che la concorrenza è l'anima del mercato, e quindi io sono assolutamente, sai, io vendo pubblicità nella vita, e quindi voglio però in questo sono caso assolutamente contenta. La onora, io voglio quasi un uomo che lo vogliono tutti, che lo vogliono tutti. Beh, però in questo caso, che gusto c'è? Però in questo caso sono per il mercato. D'accordo, però in questo caso è un uomo che vuole il signor... Vabbè, che male. Ma piace molto agli omosessuali, signor Sallusti? Le devo dire che lui secondo me piace da bestia un po' a tutti. Addirittura a tutti. Io di questo sono, no, piace non a tutti, piace però a tutti i tipi, cioè, a piace dire, a tutti i tipi, sono, ma anche ai gay, è un po' tipo gay. Certo, non vorrei stare con un uomo che non piace a nessuno. Vabbè, quello c'è. Trovo che lui sia l'oggetto di desiderio di uomini e donne, mi fa molto piacere. Ma anche gli uomini? Anzi, mi intriga. Intriga sapere che ho oggetto del desiderio. Ma io ma penso io non che no, io sono una donna, cioè, che voglio dire, non ha pregiudizi. No, per carità, però ci mancherebbe altro. Però diciamo, però ho capito, però non è che metti i paletti, se uno tradisce via è finita, cioè non è che una... Ma certo, ma che... Beh, certo, in questo certo sono super esclusivo. Certo, io dico un conto, Parenzo, come me, piace. Lei? No, io dico come me, la Santa Che in questo caso è come me, anch'io. No. Tu, no, ma tu sei un traditore seriale, una brutta persona, umanamente una persona pessima. Ma no, a me non interessa la fedeltà, è vero, sì, ho questo cosa, anzi... No, non è dell'esclusività. No, a me interessa invece la complicità. A me interessa che chi sta con me sia complice con me contro il mondo. Certo. Vabbè, d'accordo, questo ha stranamente quello, però la complicità non è che significa per forza per me, a me anzi mi fa piacere se uno venisse a casa mia, no, la mia compagna, no, adesso un po' di tempo che venisse a casa mia e dice "Guarda, ieri sera ti ho tradito". Beh, quella sarebbe bellissima. Se ti piace Igor, no, per me sarebbe orrendo. No, per me sarebbe meraviglioso. Sarebbe orrendo. Ma Sallusti piace molto ai gay? Sì, secondo me sì, è un tipo che piace molto ai gay. Ma lo state dicendo voi? Beh, l'ha detto Signorini, è una delle massime espressioni. è una delle massime. Fatto bene, signorini, è un uomo di buon gusto, quindi va bene. Un uomo di buon gusto, un uomo di buon gusto. Per me sì, lo conosco da sempre. Senta, ma il fatto che la cassa di forze... Anzi, conoscevo anche la sua fidanzata, che era una bellissima ragazza. Beh, come la sua fidanzata, diciamo, scusa, quale fidanzata? È stata ospite a casa mia più di una volta. Ma quando prima del cambio di marcia? Alfonso era fidanzato con una ragazza molto bella e anche molto simpatica. E chi era? Prima del cambio di marcia? Io conosco molto bene. Ma si sa questa cosa, che lui era fidanzato con una? Io non so se si sa, ma non credo di dire una cosa era, brutta. Era etero prima, cioè era comunque era etero. Più volte è venuto a cena a casa mia in sua compagnia, abbiamo fatto delle cene insieme ed era una ragazza bella, ma molto bella. Ma lui era già, diciamo, dall'altra parte? Lui mi sembrava un uomo molto innamorato. Molto innamorato, bah. Chissà, poi quando ma è che ha cambiato? Ma io so che le bugie non le racconto, no, dico la verità. Chissà. Anzi, ho anche delle fotografie, mi è venuto in mente che l'altro giorno metteva a posto delle le fotografie foto segrete di con la fidanzata. Signorini con fidanzata, una cosa pazzesca. Sì. Allora, siamo qui la Zanzara con Daniela Santanchè, Forza Italia, David Parenzo in collegamento da Roma. Berlusconi ha detto a porta che non ha mai pronunciato la parola culona inchiavabile riferito alla Merkel. In realtà Vespa non gli ha chiesto proprio questo, gli ha detto ma insomma lei ha pronunciato o no quella famosa frasaccia facendo riferimento eccetera, non ha avuto il coraggio di dire culona inchiavabile. Insomma, Berlusconi ha detto io quelle cose lì non solo non le dico ma non le penso neppure. Eppure il giornale, mi ricordo che no, più volte, era più Capodanno. Sì, e Capodanno. Un titolo che io ancora, la copia che io ancora conservo. Uno dei più bei titoli del giornale, diciamo la verità. Davvero? E il titolo era È stata la culona. È lo stata ricordo la culona. Benissimo. Così. Vabbè, ma tanto se l'ha detto Berlusconi, la Santanchè ripeterà la stessa cosa. L'ha detto secondo lei questa frase oppure no? No, perché guardi, onestamente non è il linguaggio del presidente Berlusconi. Vabbè, uno può io fare. Io avrei preferito che la dicesse, dire la verità. Sì. Ma sono certa che non l'ha detto. Potrei dirlo io, ma il presidente no. Cioè, anche in faccia glielo direbbe. Non dice le parolacce il presidente. Ma lei in faccia glielo direbbe? Sì. Alla Merkel? Ma guardi, io un mese fa sono stata chiamata dalla presidente Boldrini, che attraverso un commesso della Camera mi ha detto, onorevole, il presidente vuole conferire con lei. Sì. Ho detto, non c'è problema. Ma ha detto, no, ma l'aspetta sullo scranno, quello lì alto, dove stanno seduti i presidenti, che porta anche un po' sfiga quel posto. Sì. E io sono andata. Sì. E lei mi ha detto, ma onorevole Santanchè, mi hanno detto che in televisione lei non è stata solidale con me. Io l'ho guardata e gli ho detto, presidente, l'hanno informata molto male. Io ho detto una cosa diversa. Ho detto che lei è una persona inadeguata a stare seduta su questa poltrona. E allora lei? Lei mi ha guardato e mi ha detto, come? Gli ho detto, forse non ha capito. Ho detto che lei non potrebbe stare seduta su questa poltrona, che non ha titoli, non ha vinto un concorso, non ha nessun merito per essere seduta. Vabbè, è stata eletta al Parlamento. Concorso, e lei come? Me ne sono andata. Lei era non basita. È che c'è un concorso. Stava per piangere. Addirittura stava per piangere. Sì. No, piangere. Ci vuole un concorso però per fare il presidente della Camera, eh? Ci vuole un concorso. Vabbè, inadeguata politicamente, Parenzo, in questo senso vuole dire. Certo, va bene. Ha vinto ancora i giardinetti lui. Non ma sono qua. Ma lei avrebbe dato la cassa di Forza Italia alla signora Maria Rosaria Rossi? Assolutamente sì. Qualsiasi scelta di Berlusconi va bene, signora Santanchè. Ma lei parla con una persona che ha combattuto, si è fatta tanti nemici, perché ha condotto una battaglia, perché voleva che il presidente Berlusconi avesse tutti i poteri sul movimento da lui fondato, e secondo lei oggi posso criticare una scelta del presidente nei suoi pieni poteri? Però questo cerchio magico ha tutto in mano adesso, pure le casse del partito, il famoso cerchio magico. Ma pensare al cerchio magico vuol dire non conoscere Berlusconi. Vabbè, un po' esiste, non dai. C'è foglia che si muova senza che Berlusconi non voglia. Vabbè, però quindi può essere influenzato, può essere alcune cose gli vengono dette, altre non gli vengono dette, questo ma succede. Ma non conoscete Berlusconi, Berlusconi è più intelligente di tutti noi messi insieme. Addirittura. Non c'è una cosa che si faccia, Berlusconi non delega niente, Berlusconi si occupa di tutto. Berlusconi sa. Ma è un po' abbacchiato come in questa tutti campagna. I grandi fanno finta di non vedere, di non sapere, ma sa tutto molto. Però in questa campagna elettorale ancora il colpo finale non c'è stato, è ancora quello che ha detto. Non No, il colpo di coda. Ma guardi, io le dico da donna, colpo di coda. Colpo finale, un presidente che dice che se vinciamo le pensioni alla casalinga, ma non vincete, ma sono le elezioni europee. Se io fossi una casalinga che lavoro più tremendo, che fa? Voterebbe Berlusconi. Il lavoro più noioso. Ma non è possibile, non siete al governo. Ingrato. Berlusconi ha detto 1.000 euro di pensione. Ma ho capito, ma non lo può fare. Ma che uno può dire qualsiasi cosa? Non ci sono i soldi e poi non lo può fare perché sono le elezioni europee. Onorevole Santanchè, su. Ma cosa c'entra? Ma uno può dire qualsiasi cosa. Ma cosa c'entra? Ti fa capire il senso della vita. Ma quale senso? Un è una truffa. Un politico, presidente di un movimento che per la prima volta mette al centro le casalinghe. Ma l'ha detto mille volte. Che sono le lavoratrici più sfruttate. Onorevole Santanchè, che non gli è conosciuto il loro lavoro. L'ha detto milioni di volte già questa cosa delle casalinghe di 1.000 euro. Ma è una cosa irrealizzabile. Ma vabbè. È una roba socialista, è una roba comunista, dare i soldi sì, a tutti. Credete a Renzi. Ma no, credete a Renzi. Ma chi crede a Renzi? Anzi, credete a Grillo. Guardi, Parenzo si merita un bel Grillo. No, guardi, parla con la persona sbagliata. Felice, sa quanto ma col tempo cavolo. Per ma Grillo è un assassino, scusi. Anche per lei è un assassino perché ha fatto quell'incidente? Anche per lei è un assassino perché ha fatto quell'incidente in macchina? Ma per me è un pazzo. Come un pazzo? Un pazzo. È un pazzo. C'è da curare. Un visionario. Da curare. Da curare non credo neanche più che sia da curare perché mai oltre. Ormai però oltre. Però voglio dire, ma guardi che molti italiani si meritano Grillo, Ma ho capito, ma con Grillo ma lei che fa, meritano. Per esempio? Con Grillo lei che fa? Dovesse arrivare al governo del paese, lei che fa? Scappa che dall'Italia? Non so dove sono. Scappa dall'Italia. Che ne so. Combatto. Sta qua e combatte. Ma cosa faccio? E che ne so, quelli che votano Grillo, quello vuole fare i processi. Ai facessi processi. I processi. Quello che vuole. Scusami Danielina, e quelli che votano Grillo fino all'ultimo respiro della mia vita, perché io amo il mio paese. Vabbè, d'accordo. Migliore e sto qua e combatterò. Ma anche Berlusconi Berlusconi ha detto che è un assassino perché addirittura volontario, cioè sapeva quello che faceva. Oggi ha specificato questa cosa qua, però questo è esagerato. E guardi, io ho letto, voglio dire, la lettera di quella ragazza, l'unica sopravvissuta di quella famiglia, che Grillo non le abbia mai fatto. Ma no, quelli sono affari suoi, però, scusi. Ma non sono affari suoi, scusi. Ma sono affari nostri, così si candida il governo, i ministri. Ma ho capito, ma... No, ma non voglio discutere su Grillo, perché credo che gli italiani si meritano un Grillo. Perché gli italiani si meritano Grillo? Si meritano un Grillo. Cioè, se votano... Cioè, chi vota Grillo, secondo lei, è pazzo? Non è pazzo, è un irresponsabile. È un irresponsabile. È un irresponsabile che come stasera, se qualcuno venisse a casa sua, gli distrugge tutta la casa e non gli dice che gli dà una casa più bella, una casa migliore, una casa più confortevole, una casa più solida, una casa antisismica. Distrugge la casa e poi... Ho capito, d'accordo, però non è definirlo assassino, ma anche Hitler, dai, questa cosa di Hitler, basta questo paragone con Hitler, o no? Ma guardi, io non è che voglio fare paragoni, io voglio dire che gli italiani in parte si meritano Grillo. Cioè, ho capito, ma allora Berlusconi è stato condannato per frode fiscale, Grillo per questa roba qui. Ma cosa dice? Ma dovrebbe stare con le mele, ma Cruciani, ma cosa ha bevuto? No, ho capito, però anche Berlusconi in altri paesi per frode fiscale si va in galera. Allora, lei dice lo merita più Grillo per quello che ha fatto e andare giusto, in galera. Si deve andare in galera per frode fiscale quando c'è una giustizia giusta. Ah, cioè per frode quando fiscale si deve andare in galera. Quando non c'è una sentenza politica. Ho capito. Ma io voglio dire, ma scusate, ma anche voi siete italiani come me. Beh, ma sì, avete visto cosa dicono? Che dicono? In America. In Europa il complotto. Il complotto, a proposito del complotto. Ma Napolitano che ruolo ha nel complotto? Ma io voglio dire, ma voi siete belli, tranquilli. Ma che ruolo ha nel complotto Napolitano? È assolutamente il regista del complotto. Il regista. E Grillo è il prodotto di Napolitano. Ma e no, prodotto no, Grillo è il nemico. È il prodotto di Napolitano. Cioè la responsabilità. Ha sospeso la democrazia. Ho capito. Lei dice Grillo nasce e si espande perché Napolitano ha sospeso la democrazia. Lei questo dice. Voi, giornalisti liberi, Friedman ha scritto un libro pazzesco. Ma è pazzesco. Ma guardi che abbiamo intervistato noi l'altro giorno. Grillo, evasore fiscale, nessuno che fa niente. Ma no. Alla faccia della libertà. Ma come evasore fiscale, ma non è provato che è evasore fiscale. Ah, non è provato. No, non è provato. Con i manager che hanno lavorato con Grillo, che lo pagavano in nero. Ma ho capito, come i manager che hanno lavorato con Grillo. Chi sono? Certo. Ma chi? Questo che ha testimoniato al giornale? Quello che ha testimoniato sul giornale, ce ne sono tanti altri, vi do qualche altro nome. Beh, ci dia qualche altro nome. Nomi, certo. Ma gliel'ha dato lei al giornale il nome di questo qua? No. E che ne so? Io col giornale non ho rapporti. Ma come non ha rapporti? Beh, dai, su. Ha rapporti. Comunque lei dice sì. Grillo è un evasore fiscale. Parlo con un giornalista del giornale. Ma non è vero, non ci credo. Ma è uguale, non è che non ha rapporti col giornale. Parlo con un giornalista del giornale, siccome sono abituato. Ma parla direttamente col direttore. Le cose. Non vorrei mai andare a finire sul giornale e qualcuno pensi che possa avere dei vantaggi perché vivo col giornalista del giornale. No, ma vantaggi no. Ma ho capito. Lei andate a vedere se ci sono mie interviste, se ci sono mie cose sul giornale. Lei non può dire che non ha rapporti col giornale. Il giornale lo evita, ma lei ha rapporti col giornale perché ha rapporti col direttore. Ma al di là di questo. Ma cosa c'entra? Ma quali sono questi qua? Quali sono questi manager? Quali sono questi manager? Quelli che insomma Parenzo non dispiacerebbero. Cioè? Che sta dicendo vorresti stare al posto di Sallusti. Vorresti stare al posto di Sallusti. Io ogni tanto qualche invidia ce l'ho, devo dire la verità. Però... quando li incontro ogni tanto in qualche posto qua a Milano, qualche invidia ce l'ho. Perché la signora. A me piace. Si vede bene, a me piace, oh, a me è una piace. Donna. Vede che amore. A me è una bella coppia. A me, sicuramente una bella. L'altro giorno siamo capitati in una cena insieme. Devo ti dire piace la Santa anche? No, ma certo che mi piace. Questo non c'è dubbio. Però al di là di quello, no, ma che c'entra Sallusti? Ma non ho mai fatto nessun avanzo. Lo sa benissimo, Daniele. Non è quello ma il ci punto. Mai. Mai, mai. Non è quello il punto. Ma anche perché l'altra ti spinge con la lenza. Ma adesso bisogna vedere. Questo è tutto da vedere. Però. Sto dicendo che l'altra sera sono capitati in una cena insieme e veramente c'è un grande che gente frequenti? Ma perché che gente frequenti? Io non ho mica paura di dire le cose che faccio nella vita, mica vado con i criminali. Sto dicendo non è che sto con Totò. Eravate a una cena insieme. Una cena insieme, c'era un sacco di gente, non è quindi che manca se andassi giornalismo da solo. Di corte per cui ma si qual è giornalismo di corte? Ma alla fine vedi che battagliamo e litighiamo lo stesso anche se siamo anche se cena insieme, allora domani ti telefono. Luciani, ma dica come sono anche brava a batter l'asta. Allora batte le aste, cioè ha battuto l'asta, è una cosa pazzesca, una grande venditrice. Oddio, non è che poi abbiamo una grande. Ma nel suo caso, Sant'Anché non c'è fuga di cervelli, vero? Ma in che senso? No, chiedo. In che senso? Dico, ci si lamenta... questa cosa vuol dire? No, dico, ci si lamenta sempre, no? Che c'è la fuga dei cervelli. Nel suo caso non c'è una bella fuga di cervelli. Stai dicendo che dovrebbe andare via dall'Italia? Sto dicendo non quel che sto dicendo. C'è una no, ma specifica. Che può piacere, è una battuta. È una battuta riuscita male, però. È riuscita male. Ho detto nel suo caso c'è non ci può essere il rischio della fuga dei cervelli nel suo caso. Ma non ha capito la battuta, non l'abbiamo capita la battuta. Qualcuno l'ha capito. Comunque, vabbè, due cose. Nel senso che dovrei fuggire dalla politica, essendo sì, boh, ma che ne so, lo sa solo lui. Due cose. Allora, la prima è questa. Parenzo, scusi, ci faccio un disegno, così l'evasore fiscale, gli evasori, lei dice è un evasore fiscale. Ha detto una cosa gravissima, è Grillo evasore fiscale perché molti manager raccontano di avere dato soldi in nero. Cosa gravissima, sì, cosa gravissima. Mi assumo la responsabilità. Si assume la responsabilità. Benissimo. Assumo sempre la responsabilità. L'altra cosa, Napolitano capo del complotto, regista del complotto. Grillo prodotto di Napolitano. E dunque dovrebbe essere messo in stato d'accusa Napolitano, perché ha tradito l'Italia, un traditore dell'Italia. Ci sarebbero tutti gli elementi per un impeachment. Tutti gli elementi per un tutti impeachment. Tutti gli elementi, alla luce di quello che è stato scritto nei libri, alla luce di quelle che sono state le dichiarazioni l'altro giorno di Lutovac. Lutovac. Esatto, e quindi voglio dire che si aspetta un paese che non vuole vedere la verità è un paese che non può andare a futuro. Io se fossi napoletano farei un discorso alla nazione, cioè dovrebbe spiegare che cosa succede e poi dimettersi dovrebbe, ma sei il regista che spiega dimettersi ma proprio non più uscire di casa. Ah no, non dovrebbe più uscire da dovrebbe casa. Dimettersi e cambiare paese e vergognarsi anche molto vergognarsi. Vabbè, questo è vilipendio al Presidente della Repubblica. C'è ancora come reato? Vilipendio al Presidente della Repubblica? Esiste come reato? Ma dicono che la moglie di Napolitano, Clio, odi Berlusconi, è vero, signora Sant'Anché? Non ho rapporti con Clio. Ma è quello nemmeno io. La macchina. Conosco solo la macchina. La macchina Clio che non mi ricordo che. Questo anche di cattivo gusto rispetto a una signora che voglio dire. Però mi dicono che odia, mi dicono che è lei quella che paragonata a una macchina, insomma, è una signora. Mi dicono che odia Berlusconi, è vero o no? Rispettabile. Ma io non lo so, io so che non odio nessuno, neanche Napolitano. Da italiana dico che ha fatto tanto male a questo paese. Sì, vabbè. Ci ha esposto allo spreco. Dovrebbe andare all'estero. Ci ha esposto voglio dire, il fatto che il nostro paese fosse ha prodotto Grillo, dice lei? Ha prodotto Grillo. Sì. E mi dispiace che il nostro movimento politico non abbia le palle. Perché? Da questo punto di vista. E perché? Dovrebbe avere le palle? Ah, perché non ha le palle perché dovrebbe fare una battaglia contro Napolitano, invece sono troppo morbidi. Assolutamente, troppo morbidi. Senta, troppo morbidi, perché lui è regista di tutto. Senta, è regista di tutto. E invece guarda che anche lui per fare il secondo mandato al Presidente della Repubblica non è che ha vinto un concorso. Beh no, l'avete letto anche voi però, È stato un errore, esatto, allora. Presupposti altri. È stato un errore però. Lei ha scritto che Napoli... presupposto della pacificazione. È stato un errore però. Alla luce mamma dei fatti. Mia, un errore. Io non lo voterei neanche sotto tortura. Ebbene, poi ve beccavate Prodi, però, eh? Ve beccavate Prodi. Meglio. No, come meglio Prodi? Meglio. Addirittura, meglio Prodi di non Napolitano. C'è peggio rispetto a tutti i presidenti della Repubblica, della storia repubblicana del nostro paese. Vabbè, ormai si può dire. Le voglio chiedere di Veronica. Neanche Scalfari era meglio. Ma addirittura, pure Scalfari. E che ha fatto sto Napolitano? Cioè, che è? Doppiezza, un mostro? Scusi, Napolitano ha fatto il terzo presidente del Consiglio non eletto dal popolo. Vabbè, però, vabbè, non è che. Ma l'avete votato anche voi, si ricordano? Ha manovrato con le cancellerie internazionali, voglio dire. Perché Napolitano l'avete votato voi anche. È stato mandato a casa. Ha mandato il Presidente del Consiglio Berlusconi a Cannes senza fermare il decreto sviluppo che avrebbe rimesso a posto il nostro paese. Senta, la Lario, vabbè, basta, la dai, torni a fare la pasta asciutta, dai, adesso. Ma che c'entra la pasta asciutta? Sei veramente sei volgare. Ma io anche lo faccio. Cosa deve fare per cena? Io la pasta asciutta non ho ancora ordinato cosa c'è per cena, cosa devi fare ma per cena. Io la so fare. Non hai ancora ordinato. Ma io a casa anche cucino. Lei in ritardo sulla pappa del ma io cucino anche a casa. Ma io so cucinare a differenza sei di altri uomini. Sei in ritardo sulla pappa del bambino, ma infatti la faccio più tardi. Ma io so cucinare. Chiudiamo la politica, faccia la minestra di verdure, dai, su. Facciamo la minestra perché ha tanti bisogni. Allora, quindi non le voglio rubare. Faccia la minestra di verdura. Un'altra cosa, Veronica Lario, noi voi sentite che Veronica Lario ha protestato per l'articolo su chi ha fatto bene o ha fatto male a protestare, è una violazione. Ma come non commenta? È meglio che non dica il mio pensiero. No, come no? Deve dire il suo pensiero. Mi voglio astenere. No, non si può. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. No, non si può fare. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Perché dovrebbe dire peste e corna da signora Lario? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ma ha sentito quanti soldi chiede a Berlusconi? Ha sentito quanti soldi chiede a Berlusconi o no, signora Lario? C'è una sentenza. Io nella vita ho sbagliato tutto. Perché? Pensi, sposare un miliardario e vivere di rendita tutta la vita. Vabbè, pure lei non è che ha sposato dei poveracci, non ha sposato un cassi integrato della Fiom, non ha sposato, magari poi ma che dice, no, Cattani? Poi ha fatto la sua vita lei, però non è che ha sposato dei morti di fame, Adesso lei vuol dirmi che voglio dire io sono no, il paragone non si può fare, il paragone non si può, no, non voglio dire questo, però non è che lei ha sposato delle persone nulla tenenti, non mantenuta dagli uomini mai, anzi ha mantenuto mantenuta dagli uomini, però anzi mantiene degli uomini, forse mantiene degli uomini anche adesso, no. Ma io guardi, mantengo uomini nel senso come imprenditore pago molti stipendi. Vabbè, ma l'Alario ha fatto male a fare quell'intervista o no? Ha danneggiato Berlusconi, ha detto che c'è la macchina del fango. Mi dica qualcosa bisogna dire. Che io avrei fatto tutto diverso. Vabbè, quello è chiaro. Vabbè, non vuole dire niente. Grazie. Avrei fatto tutto diverso. A presto. Non voglio dire niente. No, voglio salutare parenti. Ma com'era in quelle foto? Com'era in quelle foto la signora Lario? Com'era in quelle foto la signora Lario? I comandi di chi? Non le ho viste. Ma come non l'ha viste, sì. Io non vedo, non sento, non parlo. A presto, arrivederci. Ci sentiamo dopo le elezioni, cari. Arrivederci. Ancora in casa, Ivo. Per adesso non è tornato, il signor Dell'Utri, non è ancora tornato. È una battaglia giudiziaria. Non so se faranno vedere le immagini di Dell'Utri che scende dalla scaletta dell'aereo magari con le manette prima delle elezioni, eh. A Allora, devo avvertire tutti gli amici tassisti di Milano che non sono al lavoro, sono fermi, che ieri avevamo programmato un'intervista con la grande capa italiana di Uber, la signora, sì, che non mi ricordo, sì, bene come si chiama, Nucini, una cosa di questo tipo. Due secondi prima di essere richiamata al telefono ha detto che non poteva più, eccetera eccetera, con un messaggio ha detto che non poteva più e poi ha spento il telefono, una signora di Uber, contro cui non ho nulla, per carità, avevamo preparato le nostre belle domande, le nostre contestazioni, eccetera eccetera. Allora, se la signora però ha coraggio, va benissimo, venga qui, con le domande nostre, e poi successivamente, quando la signora di Uber chiude la telefonata, possono intervenire anche i tassisti, non si preoccupi, non ci sarà nessun confronto, eccetera eccetera. Però non è che uno per tre giorni si può fare negare al telefono, signora di Uber, la signora di Uber, altrimenti mi incazzo, capito? Altrimenti mi incazzo. Fino a 5 minuti prima era programmata questa intervista con la signora di Uber. Sì, questo è giusto. Di Uber, capito? Però lei si è sentita un po'. Io voglio, vorrei, guarda, che lei chiamasse, guarda, qui. Io non ho nessun pregiudizio. Vorrei che la signora Uber di Uber chiamasse e si confrontasse con noi, e dopo eventualmente con gli ascoltatori diranno il loro parere, i nostri amici tassisti, eccetera. Però che lei si sia sentita, come dire, anche aggredita, ma non da noi. Ma io non ho nessun pregiudizio. No, ho detto non da noi. Non bisogna, in usare questo la contesto, violenza. A Milano lei si è, ecco, chi bravo, usa la violenza è sempre sbagliato. Comunque sempre. Questo devi dire. Quando si annullano, si fanno annullare. Qualcuno ha esagerato, perché so che lei è stata presa molto di mira. Ho visto anche i video pubblicati. I tassisti rivendicano quello che è accaduto già a Bruxelles, cioè il fatto che il governo, le autorità di Bruxelles hanno messo fuori. Fuori legge, sì, Uber, sì, Uber, sì, è successo, sì, anche a Bruxelles. Alcuni dicono invece che Uber è perfettamente legale, se ne può discutere ovviamente, però venga a discutere qui, non è che si può negare 5 minuti prima, altrimenti mi vengono i sospetti che uno non voglia confrontarsi, invece bisogna confrontarsi anche nelle, come dire, anche nei circhi, anche nella suburra, anche nei posti più sgradevoli, non bisogna andare solo da quelli che ti fanno le domandine e poi stanno zitti. Okay, chiaro? Anche nei posti più sgradevoli bisogna andare. Capito, Uber? Uber, non ho nulla contro Uber, oppure l'applicazione, non l'ho mai usato perché non ho messo ancora la carta di credito, adesso Parenzo mi attaccherà ovviamente. Non ho avuto il coraggio, ogni tanto mi fermo, dice devo mettere la carta di credito, no, che scocciatura. Ma perché non paghi? Ma no, così. Che non pago, c'ho carta di credito ti fa così, dice scusi per il messaggino, lei i soldi però li devi anche utilizzare ogni tanto, Come zio Paperone sei, zio Paperone che nuota nei dobloni d'oro in quella casa minuscola, ma io stai col terrazzo. Allora, la telefonata, nei la telefonata con la voce del Papa alle 20:30, c'è un piccolo ritardo, perché c'è un piccolo ritardo, punto e basta, perché abbiamo ricevuto questo nastro per intiero, però lo stiamo emendando di qualcosa. Però ha ragione anche Gennarino Esposito, che su Twitter ci scrive: Gennarino Esposito è un cretino, è un pazzo. Dove Gennarino Esposito che è un pazzo, ma sì, sarà anche pazzo, ma è un pazzo, nel merito, malato, non è che dice una è un malato, sarà, poveretto, però non è che, ma non si dice chiama nemmeno sbagliata. Gennarino Esposito si chiamerà, come si chiama, non ma mi interessa, si chiama, è uno che insulta, ha questo nickname e dice: ma chi siete, dove è scritto che debba confrontarsi con voi? Sì, infatti uno può scegliersi gli interlocutori, però ma no, noi ma che c'entra, aveva accettato, ma lui scrive, ma chi se ne frega di Gennarino Esposito, ma chi è? Te brucia che Cristian da Pavia, parte. Dai, Cristian da Pavia. Buonasera. Vai. Sì, ciao Crociani, ciao Parenzo. Dimmi, ciao. Volevo parlare un attimo con Parenzo. Sì, perché all'inizio della trasmissione, parlando di Battista, scusate, ma io ho un ritorno. Beh, noi sentiamo tremendo, benissimo, però, Cristian. Noi sentiamo benissimo, guardi, benissimo. Ok, allora mi allontano un po'. Niente, in sostanza all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di Battista, di quello che aveva detto sulla mafia. Sì, sì, cose molto gravi. Cioè ha detto che la mafia è anche il PD quando fai compromessi. No, ha fatto quella... i nomi. Sì, esatto, ha fatto i nomi di Civati e di Recuperlo. Non capisco come mai fai la prima donna quando di Battista dice una cosa del genere, dici come si permette, e poi magari con gli ascoltatori... lei chi è? Tu cosa fai? No, non ho capito la critica. Il collegamento qual è? Scusi, non ho capito la critica. Qual è il collegamento? Non ho capito la critica. Professore, qual è il collegamento? Pronto? Qual è il collegamento? No, volevo sapere come mai Parenzo si trasforma così da prima donna a pezzo di merda. Ma non ho capito la critica. Ma nemmeno io, vabbè, cosa? Lascio, vabbè, Giuseppe dalla provincia di Bari. Ma non l'ho capito, dai. Se mi attacca in modo intelligente un'ora rispondo. Su una cosa che non si capisce, dai. Poverino, malato questo. Allora, Cristian, forza, su. Chiarisca, se ci riesce. Cristian? Se n'è andato, dai. Se n'è andato, Giuseppe dalla provincia di Bari. Preparati carissimo un attimo. Giuseppe. Sì, dimmi. Carissimo, parliamo di cose serie. Sì. Allora, io essendo un ex addetto ai lavori, che vuol dire lavori di cosa? Mobilitazione all'emergenza, sono un ex maresciallo dei CC. Dei carabinieri, sì. Allora? Yes. E allora, siccome qualcuno ha menzionato l'ONU, tacchi blu, per quanto riguarda gli immigranti, io direi una cosa più sostanziosa. E qual è sta cosa? Eli trasportati, punti strategici delle coste africane nord, primo, puntare lì, se non ci sono i caschi blu ci prendono un po' di nostri soldati che stanno a fare niente e venire lì a aiutarli, e poi distruggere sistematicamente i barconi senza reti. Li devono sfuggire tutti i barconi. Lo se dice... no qua non si finisce più, siamo a collasso, Giuseppe, siamo a collasso. Basta con questa immigrazione incontrollata, basta con questa immigrazione incontrollata, basta, la gente non ne può più. Tutto, ma che c'entra? Poi un'altra cosa, la posso dire su Berlusconi? Dimmi, ma che c'entra? Allora, Berlusconi si sta autofagocitando volta che esce, che si sta autodistruggendo. Ma che vuol dire? Chiedo scusa, posso interloquire con lei? No, aspetti, Paretto. No, un attimino, perché tutte le volte che esce in TV, molta gente che è smemorata si ricorda gli inizi di quest'uomo, un gamba bravo, industriale, però, agli inizi. Però fece miliardi e bisognava difenderli. E per difenderli come si fa? Si va in Sicilia, eccetera, eccetera. Ho capito, eccetera. Vabbè. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda, ma poi invece sa brucia proprio addosso a me. Tempi duri. Eh sì. Vedi che minchiate che dito. Sia maledetto che ha detto che non si può spruzzare lì di Dio. Oh, scontro tra Scalfarotto e Salvini. Senti, questa mattina credo ad Agorà, non mi ricordo. Nel 78 spendevi 1000 euro per un ghiacciolo. Dice Scalfarotto, volendo intendere che c'era l'inflazione quando c'era la lira. In realtà i ghiaccioli. Vabbè, sentiamo prima. Quella 1000 lire che ha fatto vedere Salvini, ci compravi il ghiacciolo nel 1978. Nel 1979 tornavi a casa in vacanza e la signora che ti vendeva il ghiacciolo ti diceva che non bastavano più. Guarda, mille lire Salvini, per il Salvini con ma che costava 100 lire il ghiacciolo. Solo a te lo vendevano 1000 lire il ghiacciolo. L'anno prima ne costava 50. Un giornale costava 1000 lire per 3 mesi o per 6 mesi. Salvini, cosa dici? Beh, effettivamente su questa cosa ha ragione Salvini, eh. Cioè, al di là della questione dell'inflazione, che oggettivamente è così, c'era un'inflazione pazzesca con la lira, oggi 500 non c'è. Lire costava un ghiacciolo. Ma quale 500 lire? 100 lire costava, 100 ma lire. Dipende, sì, ma sì, si è arrivati al ghiacciolo. Sì, sì, forse sì. Ma vero, sì, certo, me lo ricordo benissimo. Cioè, costava, che ne so, tipo il cono costava 2,50, una cosa del genere. Cioè. Dai, su. Sia maledetto chi ha detto che non si può spruzzare lì di lì. Oh. Il ministro dei trasporti Lupi, ministro dei trasporti Lupi, oggi ha preso posizione nella vicenda taxi contro Uber. Ha detto, aspetta, ha detto non è tolleranza che ha vietato Uber. Ma non può vietare il ministro, appunto. Sono i comuni che possono farlo. Tolleranza zero per l'app, cioè contro Uber, colpevole di esercizio abusivo della professione. Ora, io non so chi abbia ragione, probabilmente Uber è sul filo della legge, naviga, è proprio il caso di dirlo, in quell'ignoto, ed è sul limite, perché se la pubblica, come dire, se il trasporto pubblico è regolato da alcune leggi, esatto, e Uber non rientra in quelle leggi lì, oggettivamente, esatto, c'è una situazione di semi illegalità, diciamo. Però così. Lupi dice un'altra cosa. Ma al di là di questo, no, ma a me lascia perdere, non entriamo nel dettaglio. No, nel merito dice una cosa importante. Ma non voglio dire il merito. Che nessuno può improvvisarsi tassista o quella è un'altra cosa, no, quello è il punto a cui si aggancia Uber. Non hai capito nulla. Quella è un'altra, ma non sai le cose. Uber, quella è un'altra applicazione. Tu non hai capito. Va bene, Uber c'è un'altra applicazione e non lo sai, che si chiama Uber Pop. Esatto. È una quello non c'entra niente, è un'altra cosa. Il comune l'ha già dichiarata illegale, quella roba lì. Sono due temi che si intrecciano. Ma non c'entra nulla. Quando non legge, Lupi, vuole sapere. Lupi si riferisce all'applicazione, punto e basta, e dice che secondo lui è illegale. Quello che mi stupisce è la questione politica. Leggi la questione politica. Sì, ma lascia perdere. Ma dice no, che... ma se no dai un'informazione sbagliata. Ma leggi perché ha detto che è illegale. Ma l'ho sennò detto non prima. L'ho detto prima. Perché è illegale secondo lui? Perché non rientra nella legge di servizio pubblico, punto. Lascia perdere. La questione fondamentale è che Lupi si è accorto adesso che esiste Uber. Cioè Uber esiste da anni e chissà perché se ne è accorto poco prima delle elezioni, 3 giorni prima delle elezioni. Dunque fa una chiassata a favore dei tassisti. Ripeto, io non ho nulla contro i tassisti. Posso pensare che Uber sia sul limite della legge, però guardatevi bene, amici tassisti, da chi adesso vi esprime solidarietà come ministro Lupi, che fino adesso non ha detto nulla su Uber, nulla, e chissà perché 2 giorni prima delle elezioni, 3 giorni prima delle elezioni, spara a vostro favore. Dunque guardatevi bene, guardatevi bene. Oh, finalmente ci è arrivata la telefonata, Finalmente ci è arrivata la telefonata, amico mio. La telefonata è del Papa. Il Papa ha chiamato un fervente cattolico, il signor Magdi Cristiano Allam. Senti. Buonasera, sono Magdi Cristiano, con chi parlo? Buonasera signor Allam, scusi se la disturbo, sono Monsignor Sandri della Segreteria di Stato Vaticana. Ah, molto piacere, piacere. Piacere, signor Allam. Ascolti, grazie per avermi chiamato. Ci mancherebbe. Ascolti, sì. Io ho in collegamento il Santo Padre che desiderava parlare con lei. Glielo posso passare? Sì, assolutamente, assolutamente. Benissimo, grazie. Attenda un attimo, grazie. Per favore. Grazie. Signor Magdi Alam. Buonasera Sua Santità. Che gioia immensa per avermi chiamato. Grazie. Mi fa molto piacere. Spero di non disturbare. No, ma sta scherzando. È un onore, è una gioia poterla sentire e spero di poterla incontrare appena possibile, Sua Santità. Mi piacerebbe, volevo proprio e chiederle questo, mi farebbe piacere di incontrarla, magari a Santa Marta mi hanno parlato molto di lei, ho seguito la sua storia e vorrei conoscerla di persona. Quando vuole, è sufficiente che lei mi dica qualsiasi giorno, in qualsiasi ora, io sono a disposizione. Io volevo spiegarle solo brevemente perché purtroppo non ho tempo e suppongo che anche lei abbia molto da fare. Sto creando un gruppo di studio sulla persecuzione dei cristiani. Lei è profondo conoscitore del cattolicesimo e dell'Islam e vorrei che lei facesse parte di questo gruppo. Con gioia sua Santità, con gioia. Quindi disponga di me liberamente, assolutamente. Lo farò grande gioia. Trovare così molta disponibilità da parte sua e la ringrazio. La considero una missione. Una cosa sola vorrei chiederle prima di salutarla. Ho letto che lei vuole denunciare il Presidente della Repubblica Napolitano. Per il colpo di Stato finanziario che nel novembre del 2011 ha portato alle dimissioni di Silvio Berlusconi. Sì, l'ho scritto oggi su Il Giornale. Ma lei intende farlo di sicuro? Perché se no. Tratta... Prego, prego, Sua Santità. No, chiedo scusa, non ho sentito la sua risposta. Intende farlo per davvero? È la carica più importante dello Stato in Italia, sì. Il Presidente. Sì, è una denuncia politica, sì, non è un atto penale, è una denuncia politica, è un tema un po' delicato. Comunque, se questo, diciamo, dovesse crearle problemi, me lo dica pure. Ne parleremo sicuramente a Santa Marta. Se, quando vuole lei. Se per lei va bene, la farò chiamare della nostra segreteria di Stato Vaticana. La ringrazio. Della sua grande disponibilità. Sono io che ringrazio lei di questa telefonata. Grazie, è stato un regalo immenso, Santo Padre. Che il Signore grazie la benedica e la Madonna la custodisca. Buonasera. Amen, buonasera. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Allora, il signor Magdi Cristiano Alamo, cui va tutto il nostro affetto, ovviamente, è stato pizzicato dal finto Papa Francesco con questa telefonata. Parenzo, mi pare ne sia uscito benissimo, però. Ma hai sentito, a un certo punto ha detto: beh, Pontefice, sì, ho denunciato Napolitano. Sì, però... no, ma quello si capiva che era una denuncia politica. Però, è una denuncia politica, però se vuole, no? Ma dici, se questo le crea imbarazzo, ma in questo se, questo, se questo le crea imbarazzo. Sì, ma è una coerenza. Però su questo uno riconosce la coerenza di Magdi Cristiano Allam, però scusami, no? Perché ma hai visto che tipo di. Era emozionatissimo. Beh, davanti al Papa. Credente, si è quasi prostrato. Ma perché tu non ti av- a al te Papa. Non ti chiama, giustamente, Papa. Ma che mi ma deve chiamare Papa? Chi se ne frega? Perché poi? Dovrebbe. Ma chi se ne frega? Insomma, sei veramente una brutta persona. No, guarda, se mi chiama il Papa, ti giuro, ti dico, vabbè, che vabbè. Traffico! Chi è? Pronto? Non mi interessa! Sono il Santo Padre. Traffico! Borsa! Quello è un cretino! Ma che roba è? Allora, l'imitatore come al solito era il nostro Andro Mercù. Bisogna fare un applauso perché cucù, c'è Andro Mercù, cucù. Bravo Andro Mercù. Bisogna fare un applauso perché Andro Mercù qualche giorno fa, detto Android, anche io lo chiamo Android, perché qualche giorno fa qualcuno voleva fregarlo lì, sai dove ci sono questi organi burocratici, no? Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, tutte queste cose, queste strutture burocratiche. Lo volevano mettere in mezzo per la famosa telefonata di Barca a Barca da parte del finto Vendola, magistralmente interpretato dal signor Mercù. Qualcuno voleva cacciarlo. www.andromercù.it. Qualcuno voleva cacciarlo. Qualcuno voleva addirittura cacciarlo da questo consesso. Però la mozione presentata è stata respinta 83 voti contro 17. Dunque, tiè. E applauso. Chiunque volesse rivolgersi ad Andro Mercù per questioni professionali, ma no, può contattare. Do tutti i numeri. Ma tutti dai, tutti i numeri. Trasparenza. Stai zitto. Chiunque volesse Luigi rivolgersi ad Andro Mercù. Stai zitto, Luigi da Monza. Intanto la signora Santanchè non è neanche degna di lavare le mutande, il nostro presidente. Detto la signora Santanchè. Non è neanche degna di lavare le mutande al nostro presidente Napolitano. Ah, Napolitano, sì, vabbè, adesso. Ci mancherebbe. Poi invece telefono perché continuate a intervistare uno sprovveduto pressapochista politico che risponde il nome di Matteo Salvini. Un vecchio dentro e un vecchio dentro che non sa dire le cose, a un certo momento ignorante in geografia e anche in matematica. Infatti ha fatto una scommessa con Parenzo, 6%, il 6% i parlamentari europei sono 70, gli italiani 6% è 42, ne prenderà 5, adesso ne ha 8, ne perderebbe 3 e grida al successo. Ma che cavolo c'entra, scusa, non c'entra niente. Ha fatto la scommessa? Ho capito, ma è evidente che rispetto a 5 anni fa la Lega prenderà di meno, no? Beh, ma lo sanno tutti, pure i sassi. Ma 8, ne perde 3. Vabbè, ma lei non sa niente, pontifica, lei non sa nulla e pontifica, Luigi, non sa nulla e pontifica. Come non so niente, come non so, ne ha 8. Ma è chiaro che ne prenderà di meno, bisogna vedere da cosa si parte. I leghisti sono vecchi dentro. Guardi, fino a qualche tempo fa, fino a qualche tempo fa, la Lega era praticamente morta. Ora, se il signor Salvini, poi uno può giudicare male, bene, è un criminale, ma la campagna conta, non sono è gli otto parlamentari che vanno, che ci sono, ne prende 5 e ne ha persi 3. Oh, anche tu hai la matematica un po' in difficoltà. Ma sì, ma però partendo loro da una base bassa quest'anno. Loro. E poi sono tutti retrogradi, antichi, vecchi dentro. Vabbè, sono tutti. Se senti i giovani padani, sembrano ottocenteschi, pre-volteriani, prima di Voltaire, prima dell'illuminismo. È una vabbè, piaga per qua, il paese. Ma questo lei pensa che sia una piaga per il paese? È contro la Lega, questo è legittimo. Ma infatti, poi vogliono passare a ritornare alla lira, un'altra moneta, e noi paghiamo 80 miliardi di interessi sul debito pubblico, schizzando all'11-12%, 14% che ci sarà l'inflazione di interesse, andremo a pagare 160-170 miliardi, 100 miliardi di differenza in più solo negli interessi. Vabbè, ma lei va benissimo, lei può contestare l'uscita dall'euro quello che vuole, ma se la Lega prende il 6%, come ha detto oggi Salvini da noi, sì. Prenderò sicuramente il 6% e farò il botto, questo ha detto, sì. È un trionfo assoluto per Salvini. Era morta la Lega fino a qualche tempo fa. Ma io sono d'accordo con te, ma figurati a otto parlamentari in Europa, invece di 8 ne va 5. Ma questo c'ha le pigne, un grande successo. Cioè, lei ha le pigne. Le pigne. Sì. Non me molesti moschito. Non me molesti moschito. Allora, cari tassisti, ripeto, chiunque oggi a 3 giorni dalle elezioni vi parla e vi solletica e vi liscia il pelo, chiunque, che sia Lupi, che sia qualcun altro, chiunque vi solletichi, lo fa solo per prendere i voti, poi se ne fotterà. Ve lo dico subito, voi che ci state ascoltando in questo momento, anche se non lavorate e avete la radio accesa sulla Zanzara, ve lo dico in maniera esplicita, ve lo dico da amico, come direbbe Razzi. Chiunque vi liscia il pelo in queste ore, respingetelo al mittente, rispeditelo al mittente, perché tanto lo fa solo ed esclusivamente per lisciarvi il pelo. Non mi molesti il moschito, non mi molesti il moschito, why don't you go home? Andrea da Torino. Pronto Bruciani? Pronto. Dimmi. Senti, volevo dirti che Parenzo mi ha rotto i coglioni. Perché ti ha rotto i coglioni? Perché ti ha rotto i coglioni? Te lo dico, adesso lo spiego. Perché è l'ennesimo impresentabile che voi chiamate, no? Cioè tu chiami come una Sant'Anchè, che cazzo ti aspetti? Ma arriva sempre Parenzo che a un certo punto dice ma non si può fare informazione così, dovremmo fare un programma per aiutare i più poveri. Ma hai rotto i coglioni, tu mi hai insegnato che anche il moralismo può fare spettacolo. Cosa non faresti per fare un po' d'audience, cazzo? Ma che c'entra, mica lo sta dicendo quel lui. Ma rotti i coglioni, basta, tu almeno dici la prima roba che ti viene in mente, la spara e non ci rompi il cazzo. Con tutte ste minchiate, dovremmo aiutarli, ma Cruciani che persona sei, ma basta, ma lo sai, che programma fai? Lo sai? Palesemente disinformazione, Alessio, ma come stai parlando? Col coso, con l'auricolare, come stai parlando che t'ammazzo? Normalmente, allora avvicina la bocca al telefono, no. Meglio, se no non si sente nulla. Pronto, mi senti? Sì, adesso ti sento, dai. Non ho capito. Parenzo, dice quello che ma pensa. Ma non ti dai per il culo. Ma perché? Secondo te non crede a quello che dice? Ma palesemente no. Ma come no? Ma ti sbagli. Ti sbagli. No. Andrea da Torino, Andrea. Andrea? Ah, beh, che era quello di prima, Alessio. Ragazzi, uno rincoglionito, ogni tanto. Pronto? Rincoglionisco pure io. Alessio, dimmi. Niente, buonasera, io chiamo dalla provincia di Roma, da Nettuno. C'è poco tempo, non me ne frega niente. Ah, scusami, niente. Vai, praticamente io volevo intervenire sul fatto degli extracomunitari. Che vuol dire sugli extracomunitari? Noi paghiamo 9 milioni di euro al mese per pattugliare le nostre coste, giusto? Sì, giusto. Andiamo da più là, famo prima, famo se pagare il biglietto noi. Mettiamo una cosa più scena, andiamo a più li portiamo in Italia. Tanto poi comunque sia, questi arrivano uguali. Cioè lei dice uguale, a questo punto senza fare casino andiamo a prendere e portiamo direttamente qua. Perché tanto sicuramente ci sono delle associazioni rusche sotto che questi scafisti, i vanno a più, siamo noi che andiamo a più, questi li portiamo in Italia. Che il suddetto interessato dice no, qui loro non ci vogliono stare. Ma purtroppo però questi vanno qua. Noi siamo soffocati. Siamo soffocati, non esageriamo, dai, soffocati, su, soffocati. No, siamo soffocati perché non è che li portano a Cortina d'Ampezzo, li portano lì a Lampedusa. Questo è sicuro. Ai centri d'accoglienza, non è che li portano a Ponte Non li portano a casa di Parenzo, a Prati, non li portano da te a Prati, Parenzo, non li portano da te a Prati. Ma ci sono anche in zona mia, ma cosa c'entra? Vabbè, amico mio, ci sentiamo domani, dai. La tua compagna su Twitter ha scritto che effettivamente è in viaggio, no, su Twitter, è cosa pubblica, ha detto lui, in pubblico, e dunque tu oggi sei stato con tuo figlio... No, sei stato con tuo figlio, ma perché effettivamente no, devo fare mea culpa. Che faccio io a è un casa, mea, è un mea culpa. E lei l'ha detto, ero fuori mio, fuori Roma, ma dunque non è che ha interesse. Dunque Parenzo, Davide si è dovuto occupare del bambino. Vabbè, e allora alziamo tutti le mani. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.